Friuli nel mondo. Sagra di paese, Cordenoms. 39esima trasmissione dedicata agli emigrati. Prigioniero di guerra in un campo di concentramento, Renato Appi, un giovane scrittore friulano che tutto deve a se stesso, non riusciva a scacciare dalla mente il profilo del paese natio. E come lui, tutti gli altri. Lo slanciato campanile che regge un angelo in volo, la candida chiesa affacciata alla piazza saettata dalle rondini, gli opifici a specchio delle acque sorgive, gli orti, le case, i focolari, gli ritornavano in sogno, tormento e conforto ad un tempo. Alle sue labbra salivano parole in rima e in canto, suo il motivo che state ascoltando. Queste invece le parole. Il buon pellegrino che va in Furlania, venendo od andando, trova il paese dell'angelo dorato. In tutto il creato non ce n'è uno migliore. Al buon pellegrino che va in Furlania, par ultio par pre, venendo in via. Alciata al paese dell'angelo dorato, de miei anondei, in tutto il creato. Un piede campanile, quando si ado in paz, un tanti sicili, che vuole Ma l'angelo ribenedì la terra che l'accoglie. Ritornata la pace, fu dimenticata la guerra. E furono restituite la tradizione della fede e della gioia, le belle sagre di un paese, come Cordenons, che alle porte di Pordenone, veneta di lingua, conserva una parlata pregnante di friulanità. Le sagre a Cordenons, quella della Madonna del Rosario in ottobre nella Chiesa Maggiore, quella di San Pietro in giugno a Sclavons, modesta parrocchia affidata ai francescani. Festeggiate entrambe anche dagli emigrati cordenonesi all'estero, specialmente ad Avellaneda, Argentina, dove hanno costruito la magnifica sede del Circolo Friulano. La più bella fra quante costituiscono il vanto delle società friulane nella Repubblica del Plata. Alla loro fedeltà di nostalgici si ispira la rapsodia Friul Palmont, che la voce e la chitarra di Tony Lunk ripete sotto la pergola di una frasca a Sclavons, proprio il giorno della sagra. Van gli uccelli e abbandoni la loro chiave e loro sì, e cantano loro sì slontani, par che di mandi, mandi, mandi, nuli vie, che di marie è un bel mai. Mandi, mandi, nuli vie, che l'Italia dus la clami, del paradiso. Mandi, mandi, nulli vie, che l'Italia luz la clami, e dais mos del montagnutis, montagnutis, ribasaisi. Fai d'un fregol, fai d'un fregol di splendor. Pare che abbiamo chiamare a te la chiave, la chiave. Lontane ormai le montagne familiari dietro cui l'innamorato si recava ai dolci convegni d'amore. Genova, nell'imminenza della grande avventura, col ricordo della casa e della mamma, luce che rischiara il lungo cammino. La San Genova, una rossa sentia, Scaralciani, col ricordo della chiesa e la mamma, alla luce de che flama, zimpa il nostro destino. Della casa e la mamma, alla luce de che flama, simpa il nostro destino. Ma al di là del mare, un altro Friuli, dall'Argentina al Brasile, sotto la stessa bandiera, un focolare, una speranza, una preghiera. Desperciam così, col cor tra le mani, ma ne dische flama, ca son tu purla. Da Bejaneta la guaiaca saco lo serra, tutto un friul al mi, sotto bandiera, un focolare, una speranza e a tarda sera, una preghiera de Torino, primo de noi. E poi Venezuela, Messico, ancora Friuli, sia pure sul motivo di Angustia e di Malaghegna, di Caminito e di Muchacho. Brasil, sono gran volta del ciel, sentindo un spasimo sutil, che ne riguarda sempre di el, al gran Freon, un gran Freon. Angustia da non poter partire, tormento al cor de mar, angustia de no poder dormir, nostalgia non sera segno di ti arrabbi. San Francisco e Summertime. Da New York sull'Atlantico alla California sul Pacifico, Nafamea Furlana de ca e de là. San Francisco, perdóneme se un dì, de la sarren parsi, de là. San Francisco, tu te no vos capi, te sas en vasco, si, se Luz a New York, San Francisco, la flama, la famea furlana, de ca e de la. Il cerchio si chiude con Montagnutis, da cui la grande diaspora friulana muove e a cui vuole ritornare. Montagnutis, Montagnutis, riva sai si. Fai don fregol, fai don fregol e di splendor. Pare che odio vuole ritornare per rivivere l'allegro frastuono delle sagre, che sono tanta parte dei ricordi alimentati dalla nostalgia, per riudire le voci argentine che si dilatano sopra le umili case di Sclavons, ricche però di quella felicità che nasce dalla fede e dal lavoro. Vuol ritornare per rivedere le vecchie strade, i borghi, anche se mutati nell'aspetto, nei nomi. Sarviel, Romans, San Iacu, Branc, San Juan, Viarei, Masellu, Cortina, La Calle. I lux che par nossa son sempre quei che ven lasciati, sempre e guai in tal ricordi nostri, come la chiesa che son nasus, e il cimiteri coi nostri smuazzi. Al scrivere, un emigrato di Avellaneda. Ora il poeta dice una lirica breve che non richiede commento né traduzione. Luz del mio paese, luce del mio paese, luz che su in ciel te rivives al dolor ormai sant del mio mondo, luz te rimiri. La to zen prim de me ha sgiavat col sio plant la to perla, un gran cor, una os fatta eterna in grandezza, e sudor senza fin, come sang d'ana croce, come flor cal fluris ogni altar, in purezza. Cantori e suonatori si accingono a riprendere il saluto musicale a Lanzul Dorat, luminoso nella notte come una stella cometa. Oh, Nel mondo. Sagra di Paese, Cordenons. 39esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Musiche popolari. Hanno partecipato alla trasmissione Renato Appi, Adriano e Sante Turrin, Antonio Venerus, Tony Lung. Suonatori e cantori di Cordenons.